Componimento XIX dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Al conte Carlo Pepoli. Questo affannoso e travagliato sonno che noi vita nomiam, come sopporti, Pepoli mio? Di che speranze il core vai sostentando? In che pensieri, in quanto o gioconde o moleste opere dispensi l'ozio che ti lasciar gli avi remoti, grave retaggio e faticoso? È tutta in ogni umano stato ozio la vita, se quell'oprar, quel procurar che a degno obietto non intende o che all'intento giunger mai non potria, ben si conviene ozioso nomar. La schiera industre, cui franger glebe o curar piante e greggi, vede l'alba tranquilla e vede il vespro. Se oziosa dirai, da che sua vita è per campar la vita e per sé sola, la vita all'uom non ha pregio nessuno. Dritto e vero dirai. Le notti e i giorni tragge in ozio il nocchiero, ozio il perenne sudar nelle officine, ozio le veglie son dei guerrieri e il perigliar nell'armi. E il mercatante avaro in ozio vive, che non a sé, non ad altrui, la bella felicità a cui solo agogna e cerca la natura mortal veruno acquista per cura o per sudor, vecchia o periglio. Pure all'aspro desire, onde i mortali, già sempre infin dal dì che il mondo nacque, d'esser beati, sospiraro indarno, di medicina in loco apparecchiate, nella vita infelice avea natura necessità diverse, a cui non senza opre e pensier si provvedesse e pieno, poi che lieto non può, corresse il giorno all'umana famiglia, onde agitato e confuso il desio men loco avesse al travagliarne il cor. Così de bruti la progenie infinita, a cui pur solo né men vano che a noi vive nel petto desio d'esser beati, a quello intenta che a lor vita è mestier, di noi men tristo condur si scopre e men gravoso il tempo, né la lentezza a cagionar dell'ore. Ma noi che il viver nostro all'altrui mano provveder commettiamo, una più grave necessità cui provveder non puote altri che noi, già senza tedio e pena non adempiam. Necessitate, io dico, di consumar la vita, improba, invitta necessità, cui non tesoro accolto, non di greggi dovizia o pingui campi, non aula puote e non purpureo manto sottrar l'umana prole. Or s'altri, a sdegno, i voti anni prendendo e la superna luce odiando l'omicida mano, i tardi fati a prevenir condotto, in sé stesso non torce. Al duro morso della brama insanabile che invano felicità richiede, esso da tutti lati cercando mille inefficaci medicine procaccia, onde quell'una cui natura apprestò mal si compensa. Lui delle vesti e delle chiome il culto e degli atti e dei passi e i vani studi di cocchi e di cavalli e le frequenti sale e le piazze rumorose e gli orti. Lui giochi e cene e invidiate danze tengon la notte e il giorno. A lui dal labbro mai non si parte il riso. Ahi, ma nel petto, nel limo petto, grave, salda, immota, come colonna adamantina, siede noia immortale, incontro a cui non puote vigor di giovanezza, e non la crolla dolce parola di rosato labbro, e non lo sguardo tenero tremante di due nere pupille, il caro sguardo, la più degna del ciel cosa mortale. Altri, quasi a fuggir volto la trista umana sorte, in cangiar terre e climi l'età spendendo, e mari e poggi errando, tutto l'orbe trascorre, ogni confine degli spazi che all'uom negli infiniti campi del tutto la natura aperse, peregrinando aggiunge. Ai, ai, s'asside sull'alte prue la negra cura, e sotto ogni clima, ogni ciel si chiama indarno felicità. Vive tristezza e regna. Avvi chi le crudeli opre di Marte si elegge a passar l'ore, e nel fraterno sangue la man tinge per ozio. Ed avvi chi d'altrui danni si conforta e pensa con far misero altrui, far sé men tristo, sì che nocendo usar procaccia il tempo. E chi virtute o sapienza ed arti perseguitando, e chi la propria gente conculcando e le strane o di remoti lidi turbando la quiete antica col mercatar, con l'armi e con le frodi, la destinata sua vita consuma. Te più mite desio, cura più dolce, regge nel fior di gioventù, nel bello april degli anni, altrui giocondo e primo dono del ciel, ma grave, amaro, infesto, a chi patria non ha. Te punge e muove studio de carmi e di ritrar parlando il bel che raro e scarso e fuggitivo appar nel mondo, e quel che più benigna di natura e del ciel fecondamente a noi la vaga fantasia produce e il nostro proprio error. Ben mille volte fortunato colui che la caduca virtù del caro immaginar non perde per volger danni, a cui serbare eterna la gioventù del cor diedero i fati, che nella ferma e nella stanca etade, così come solea nell'età verde, in suo chiuso pensier natura abbella, morte, deserto avviva. A te conceda tanta ventura il ciel, ti faccia un tempo la favilla che il petto oggi ti scalda, di poesia canuto amante. Io tutti della prima stagione i dolci inganni mancar già sento, e dileguar dagli occhi le dilettose immagini che tanto amai, che sempre infino all'ora estrema mi fieno a ricordar bramate e piante. Or, quando al tutto irrigidito e freddo questo petto sarà, né degli aprichi campi il sereno e solitario riso, né degli augelli mattutini il canto di primavera, né per colli e piagge sotto limpido ciel tacita luna commuoverammi il cor, quando mi fia ogni beltate o di natura o d'arte fatta in anime e muta, ogni alto senso, ogni tenero affetto ignoto e strano, del mio solo conforto allor mendico, altri studi men dolci, in ch'io riponga l'ingrato avanzo della ferrea vita, e leggerò l'acerbo vero, i ciechi destini investigar delle mortali e delle eterne cose, a che prodotta a che d'affanni e di miserie carca l'umana stirpe, a quale ultimo intento lei spinga il fato e la natura, a cui tanto nostro dolor diletti o giovi, con quali ordini e leggi a che si volva questo arcano universo, il qual di lode colmano i saggi, io d'ammirar son pago. In questo specolar gli ozi traendo verrò, che conosciuto ancor che tristo a suoi diletti il vero, e se del vero ragionando talor fieno alle genti o malgrati i miei detti o non intesi, non mi dorrò che già del tutto il vago desio di gloria antico in me fia spento. Vana diva non pur, ma di fortuna e del fato ed amor diva più cieca. Fine del componimento 19.